These days you cannot have a speech or speak to anyone without mentioning coronavirus. Every competition organizer has to study it, of course, and has to take decisions, but also not to panic, of course. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Juventus rispetta qualsiasi decisione venga presa dalle autorità. La salute pubblica è un interesse primario di tutti. Alle 17:30 è stato convocato da Sua Eccellenza il prefetto Claudio Palomba un comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Situazione Covid-19, coronavirus, contagio, calendari, porta chiusa, porta aperta. Vi invito a non estendere le vostre domande a queste tematiche che oltretutto sono suscettibili di variazioni e di novità proprio in questi minuti. Sentiti anche i ministeri o il ministero dell'interno, il ministero della salute e il ministro dello sport, si è concordato la necessità di un intervento, l'ordinanza di differimento della partita Juve-Milan. El partido del Valencia Basket con el Olimpia de Milán, el partido entre el Valencia y el Atalanta, el partido del Getafe con el Inter y también para el 19 de marzo el partido del Uni Girona Venecia, que es una Eurocup femenina de baloncesto. La recomendación es que se celebren a puerta cerrada. Let's try to be optimistic. Let's just don't think about dark scenarios. It's time for that. Napoli-Inter rimandata? Non ancora niente, ci sentiamo dopo. Manca solo l'ufficialità però. Non abbiamo continuato. Ci adegueremo a quello che decidono. Ufficiale rinviata Napoli-Inter, quindi l'altra partita di Coppa Italia si sarebbe dovuta giocare oggi, disposizione del prefetto di Napoli. Questa è la decisione finale. Eccoci qui, buongiorno a tutti, 800 24 00 24, numero verde per intervenire in diretta, 349 238 6666, sms e whatsapp. Adesso vediamo il bollettino aggiornato dal mondo del calcio nell'era del coronavirus, però lo abbiamo sintetizzato in buona parte, anche se c'è qualcosa insomma che dobbiamo ancora raccontarvi in questa copertina, sperando di cercare di riuscire ad andare oltre la contrapposizione tra presidenti, club, tifosi, Inter, Juve, chi ha scritto, chi non ha scritto, chi ci guadagna, chi ci perde. Ci proviamo perché chiaramente la situazione è un po' più complessiva. Saluto Pierluigi Pardo, ciao Pier. Ciao. Saluto il professor Roberto Burioni, professore buon pomeriggio, grazie per aver accettato il nostro invito. Saluto l'inviato di Repubblica Matteo Pinci che si trova fuori dal Salone d'Onore del CONI dove si stanno confrontando i presidenti di Serie A. È appena arrivata la comunicazione non in assemblea perché la maggior parte è rimasta a casa. Matteo, ciao, grazie, buon pomeriggio. Ciao a voi, buongiorno. Sì, è proprio così, l'assemblea è andata deserta, era abbastanza noto fin da ieri, lo ha certificato il presidente del Milan Paolo Scaroni lasciando gli uffici del CONI. È dalle 10 di mattina più o meno che i presidenti, i dirigenti sono qui. Abbiamo assistito anche a scene dalle vetrate, lo confesso, non esattamente esaltanti vedere ancora dirigenti che litigano, che discutono senza riuscire a capire bene quale fosse l'argomento all'ordine del giorno. Il problema è che fino a ieri sera ancora si discuteva tra società e tra presidenti per cercare di guadagnare il minimo vantaggio, chi ha giocato, chi non ha giocato, chi ha riposato, ed è francamente squalificante in questo contesto nazionale. Per il momento il consiglio dovrebbe andare ancora un pochino per le lunghe, non c'è evidenza che escano a brevissimo. La linea mi sembra che l'abbia dettata il ministro Spadafora in maniera piuttosto chiara: stop alle competizioni con i tifosi, quindi verso la linea verso cui si va è quella delle porte chiuse generalizzate su tutto il territorio nazionale, una scelta di responsabilità mi sembra quantomeno da parte del governo, soprattutto nel momento in cui le scuole sembrano verso la chiusura totale, per cui non avrebbe alcun senso giocare con gli spettatori in alcuni stadi sì e in altri meno. Non è una decisione che ovviamente piace a tutti i presidenti. Questa linea già ieri era stata sostenuta da alcune società via mail con altre proposta, e la Lega di Serie A aveva ricevuto varie lettere di diffida dal perseguire questa strada. Questo sempre per sottolineare come sì, quale sia il clima. Ecco, esatto, il senso di responsabilità non è esattamente la dote più marcata degli amministratori del calcio italiano. Ma hai la sensazione che l'accelerazione delle ultime ore possa in qualche modo funzionare da calmante di questi istinti? Non è questa l'impressione che si respira qui, almeno non fino a poco fa. Mi auguro che, come dire, dopo il decreto del governo la situazione cambi, ecco, e si assuma un atteggiamento diverso, ecco, questo penso, immagino di sì, penso di sì, voglio pensare di sì. Devo essere sincero, questa mattina non era questa l'evidenza. Non era questa l'evidenza. Ultima domanda che ti faccio, poi ti ringrazio e ti lascio. Confermi che c'è l'ipotesi, visto che non esiste più l'idea che si possa giocare a calcio in Italia per almeno un mese a porte aperte, che alla fine venga recuperato nel prossimo weekend quello che è saltato nell'ultimo, ma stando dentro, diciamo, le canoniche date del sabato e della domenica? Sì, sì, sì, questa è assolutamente la linea che ieri hanno sostenuto 18 società su 20, ha detto no l'Inter, sappiamo, insomma, si è parlato molto della linea della società nerazzurra anche per quel post molto polemico, forse troppo, del presidente Zhang. Non era favorevolissimo il Napoli, però a questo punto 18 club su 20, non aveva molto senso convocare l'assemblea proprio per questo, perché la decisione era di fatto presa, si riparte dalle partite sospese lo scorso weekend, si slitta tutti in avanti di una settimana e vediamo fino a quando con senza tifosi. Per ora la linea dovrebbe essere un mese, forse tre settimane, più probabilmente un mese, e poi vediamo, ovviamente a oltranza se ce ne sarà bisogno. Grazie Matteo. A voi, buona giornata. Grazie Matteo Pinci, inviato di Repubblica, 800 24 00 24. Insomma, Pierluigi Pardo, Roberto Burioni, questo è lo stato dell'arte alle ore 14:11 di mercoledì 4 marzo. Riflessione. No, io vorrei subito sentire il professor Burioni su quello che ci può dire sull'andamento, insomma, su come sta andando la situazione. Noi ogni giorno ricevevamo questo bollettino con i deceduti, i guariti e i contagi. È ancora presto, credo, per tirar fuori una validità statistica, perché sono ancora pochi giorni, però insomma lui sicuramente ne sa più di noi, professore. Ma quello che noi sappiamo è che siamo all'inizio di una epidemia causata da un virus estremamente contagioso e molto pericoloso, che corre il rischio di mandare in tilt il nostro Servizio Sanitario Nazionale, che potrebbe non essere in grado di curare tutte le persone malate. Detto questo, dobbiamo considerare il fatto che il virus è, appunto, molto contagioso e si trasmette con i contatti umani. Quindi il virus si giova dei luoghi affollati, per cui in questo momento, voi sapete che io sono molto appassionato di calcio, c'è solo una cosa da fare: non si possono tenere eventi sportivi con un afflusso di tifosi, qualunque evento. Non si possono tenere partite di calcio, non si possono tenere partite di basket, di pallamano, di qualunque cosa, perché mettere 40.000 persone insieme in un posto sarebbe letteralmente una follia. La soluzione porte chiuse invece rappresenta dal punto di vista sanitario una garanzia? Beh, insomma, si incontrano solo i giocatori, non ci sono le persone, e si può scegliere di rimandare le partite, però quello che deve restare fermo, il punto inderogabile, è che non si possono giocare le partite con il pubblico. E aggiungo, al momento nessuno è in grado di dire quando si potranno rigiocare. Questo non è calcio, è scienza. Poi ci sono gli interessi, poi c'è la passione del calcio, e sapete che io sono peraltro molto appassionato, però prima viene questo discorso, perché un errore in questo senso può significare centinaia di morti. Questo non è ovviamente per chi viene dal mondo scientifico, che impressione ha invece di come reagisce in questo caso? Noi parliamo del mondo del calcio, poi ci sono anche tanti altri settori, diciamo, in questo paese, ma noi di questo ci stiamo occupando. Io devo essere sincero, in questi giorni sono stato talmente occupato col mio lavoro che ho fatto veramente molto fatica a seguire non solo gli sviluppi di questa polemica, ma addirittura i risultati della mia squadra, per cui veramente non ho seguito la polemica, mi spiace. Pier. No, io vorrei tornare sull'aspetto scientifico, quindi abbiamo visto che c'era stato un picco di più di 500 contagi l'altro ieri, anzi 3 giorni fa, poi erano un po' scesi, è ancora presto per ricavare degli aspetti di carattere statistico e soprattutto gli strumenti che sono stati messi in atto una 15ina di giorni fa, c'è il rischio che siano stati un po' inadeguati? Ma noi siamo passati in Italia da una situazione di panico venerdì decine di giorni fa, che ha portato alla follia di svuotare i supermercati, poi incredibilmente siamo passati alla negazione, non è niente, facciamo gli happy hour, il pericolo è passato, addirittura la città che riparte, ma non è la città che riparte, è il virus che riparte, e il virus in questo momento non si sta fermando. Noi gli effetti, gli eventuali misure, li vedremo tra qualche giorno, perché dal momento del contagio al momento della malattia passano tipicamente 7-8 giorni. Però anche se le misure stessero funzionando, l'ultima cosa che possiamo fare è fare di tutto perché la situazione peggiori, come sarebbe organizzare una partita o un concerto o un qualunque evento che mette insieme decine di migliaia di persone a stretto contatto. Allora, c'è chi scrive dicendo, ad esempio, perché non si chiudono le metropolitane, i supermercati, i treni, gli aerei. Insomma, però prima di chiudere un paese bisogna andare per gradi, e per gradi credo significhi anche che si comincia con i 30 giorni. Io non so se siano un lasso temporale sufficiente, ragionevole. Ho l'impressione che ci aggiorneremo poi, giusto professore, nelle prossime settimane, sì. Ma questo vale per qualunque aspetto della vita sociale, sì, ed economica di questo paese. Questo, un conto è la metropolitana è indispensabile, che la prende che la deve lavorare, per cui si potrebbe arrivare anche alla chiusura delle metropolitane, ma sarebbe un'estrema razza. È ovvio, non possiamo paragonare, con tutto il rispetto, un momento di svago come la partita di calcio con invece l'esigenza di mandare avanti la nazione. Quindi è chiaro che capisco gli interessi, però in questo momento io condivido assolutamente, anche se, e qui da un paio di giorni cerchiamo di far passare questo concetto, il calcio è per noi che lo seguiamo un motivo di svago, per noi in realtà è anche un motivo di lavoro perché facciamo parte del cosiddetto indotto. Il calcio è comunque un settore economico da 3,5 miliardi di euro, il calcio professionistico in Italia, quindi in ogni caso, ma lo sta facendo il governo, va trattato con le dovute attenzioni, non sono soltanto 22 che corrono dietro a un pallone. Io ho ancora una curiosità per il professor Burioni, però Pier ti lascio. No, vai tu. No, la curiosità è che siccome, insomma, ieri abbiamo celebrato in meno 100 giorni dall'europeo, poi si è parlato delle Olimpiadi di Tokyo che sono il 24 luglio, insomma, chi come l'UEFA fa professione di ottimismo, secondo lei, professore, la fa per facciata o perché veramente ci proiettiamo poi in una stagione anche meteorologica diversa che ci può far pensare che in realtà l'emergenza si possa superare? Io prima di tutto vorrei dire che io capisco che il calcio è un settore importante, ovviamente, ma chiudiamo un mese le scuole, che mi permetta, sono un pochino più importanti, quindi sono sacrifici che dobbiamo fare tutti. Quanto al resto, fare delle previsioni è veramente molto difficile. C'è la possibilità che andando avanti questo virus diventi, tra virgolette, più buono. Altri virus di questo tipo sono entrati in contatto con l'uomo molti anni fa, secoli fa, e sono diventati dei raffreddori. Quindi il virus potrebbe diventare più buono. C'è anche la possibilità che il virus circoli di meno col cambiare delle condizioni climatiche. Ma voglio sottolineare che sono delle possibilità. C'è questa possibilità, ma c'è la possibilità anche che questo non avvenga. Io ritengo che parlare di un mese è tutto sommato una cosa ragionevole, fermo restando che poi se le cose vanno meglio, tutti contenti, sono il primo a tornare allo stadio. Altrimenti c'è tempo sempre per aggiornarsi. Pier, se non hai domande, saluto il professor Burioni, lo ringrazio. Volevo capire la frase "siamo all'inizio", cioè che idea nella lettura dei casi, delle statistiche di ogni giorno, che sensazioni si hanno, che siamo all'inizio del picco, che siamo nel picco? No, non possiamo dire niente. Siamo in un momento in cui il contagio sta crescendo in maniera notevole, ma è quello che dobbiamo aspettarci, perché questi contagi sono il risultato dei comportamenti quando ancora non sapevamo neanche che ci fosse il virus in Italia. Adesso dobbiamo sperare che con l'efficacia delle misure i contagi quantomeno si stabilizzino, crescano di meno. Ovvio che se le misure funzionano non è che possiamo mollarle, vuol dire che stanno funzionando. Se invece si dimostrasse che sono insufficienti, dovremmo imporne di più rigorose, come ha fatto la Cina. Non abbiamo alternative, peraltro. Sì. Sull'estero dove cominciamo a vedere dei casi, mi sembra che è come se fossero arrivati con 10 giorni di ritardo rispetto a noi. Sì, sì. E questo, quindi, che vuol dire? Che facevano meno tamponi? Che... Vuol dire che forse è arrivato dopo il virus. Probabilmente sono solo questioni di casi, perché i tamponi non è che c'è una gran differenza. Io penso che questo problema sarà di tutta l'Europa e non solo dell'Italia, magari in termini differenti, ma il problema lo avranno tutti, quindi penso che l'UEFA si stia ponendo giustamente un problema generale. Certo. Sì, e difatti mi arriva adesso la notizia che, insomma, la Premier League ha scritto ai club per raccomandare piani stretti di igienizzazione, di contrasto, di misure di prevenzione rispetto al coronavirus. Lo sapete, la Premier League, ne abbiamo parlato ieri, ha anche cominciato a studiare il piano A, il piano B e il piano C nel caso l'Inghilterra dovesse essere colpita in maniera forte. Ci ascolta anche Giovanni Bruno, che saluto, perché poi parliamo delle Olimpiadi. Un'ultima domanda, sì, Burioni, approfitto in questi giorni, non lo chiamo privatamente, approfitta, perché immagino abbia molto da fare. È possibile che i casi siano in realtà molti di più e che ci sia una fetta importante della popolazione che non ha sintomi di coronavirus e che quindi poi, insomma, giustamente i tamponi si siano concentrati sulle persone che presentavano qualche sintomatologia? Sicuramente i casi sono più di quelli che noi non contiamo. Però a questo punto la questione non è tanto il numero dei casi che può essere in discussione, ma il numero di persone che finisce in terapia intensiva. Quello è un numero certo, perché sono persone ricoverate che stanno malissimo. Quello che vediamo è che questo numero sta crescendo e questo numero, se non diluito nel tempo, se non controllato, potrebbe mandare in tilt il nostro servizio sanitario nazionale. Poi avremo la persona gravemente malata che muore perché non la possiamo curare. Allora la mortalità potrebbe salire. Quindi per questo è così importante fare questo immenso sacrificio per me di non andare allo stadio. E voi ma certo. Perché dobbiamo ritardare l'epidemia, altrimenti potremmo non essere in grado di curare tutti quelli che curiamo. I numeri ci diranno qualcosa di più entro una decina di giorni, per cui se vogliamo risentirci a me fa molto piacere. Ci risentiamo fra una decina di giorni. Grazie professor Burioni. Grazie. Buongiorno, arrivederci. Grazie professor Burioni. Beh, insomma, state scrivendo in tantissimi, c'è chi ci chiede di occuparci anche dei dilettanti di altri sport. Lo sport giovanile è fermo, lo sport dilettantesco abbiamo scoperto ieri va avanti a macchia di leopardo, ma credo con ieri ci sia fondamentalmente la volontà da parte del governo di mettere il cappello su tutto, non soltanto sulla Serie A, perché si discute di Serie A, di campionato, di presidenti che litigano, di Juventus-Inter che forse va domenica sera alle 20:45 a porte chiuse, e però si comincia anche a parlare di toccare un santuario come le Olimpiadi. Saluto di nuovo Giovanni Bruno. Giovanni, ciao. Ciao, buon pomeriggio. Che impressioni ricavi santuario. Tu da come si affronta questo momento? Beh, intanto sposo tutto quello che ha detto il professore, perché meno male che qualcuno ha le idee chiare da questo punto di vista. E secondo me la cosa principale è prendersi veramente del tempo in più per ragionare su quello che sta avvenendo. Cioè, non possiamo andare avanti settimana, poi dice vabbè, fermiamo le scuole un'altra settimana, vabbè, fermiamo ancora un'altra settimana. Ok, un mese, 30 giorni, così almeno si chiarisce veramente come sono le situazioni in giro. Per quanto riguarda le Olimpiadi, sai, le speranze, e l'ha detto anche il professore, sono dettate sono il 24 luglio, si va verso la stagione più calda, dove secondo le indicazioni date dai virologi il virus tenderebbe a scemare da un punto di vista di calore. Quindi sono abbastanza fiducioso e le parole ieri di Bach sono state estremamente fiduciose. La realtà non poteva dire altro. Se poi dobbiamo essere sinceri, ha preoccupato più il discorso a livello del Giappone, perché se noi poi analizziamo freddamente le cose, consideriamo il numero e la quantità di atleti che arrivano da zone tra virgolette rischio, vedi Cina, vedi Corea, vedi la stessa Italia, che arrivano in Giappone, certo per i giapponesi non è una situazione estremamente facile nel loro tipo di organizzazione. assurdo secondo me spostarle e diciamo si può spostare di poco, ma non è che le spostiamo entro il 2020 come era stato dichiarato, cioè che tu a novembre del 2020, quindi con condizioni climatiche, vai a fare le Olimpiadi, anche perché sapete perfettamente che nonostante le palestre siano chiuse, nonostante tutti gli sport sono tra virgolette bloccati a livello anche agonistico, gli atleti che per le Olimpiadi si allenano devono arrivare quel giorno lì, il 24 luglio in poi, nella forma e nello stato migliore per passare dal sogno alla realtà. Sì, rischia anche questo, insomma, di essere un tema, e rischia di essere da questo punto di vista, se si parte, se si partirà il 24 luglio, comunque un'Olimpiade anomala. Assolutamente, ma ci sono per esempio tanti atleti che se lo possono permettere, quindi andare fuori l'Italia in determinate zone, magari al caldo, che può essere Maiorca, può essere Tenerife, ad allenarsi, parliamo per esempio di ciclismo o tante altre discipline, a parte il fatto che per esempio la Milano-Sanremo non si partirà da Milano molto probabilmente, ma si partirà da un'altra parte. Però c'è anche fare una piccola analisi, avete detto benissimo del concetto dello sport dilettantistico, giovanile e tutto quanto il resto, ma pensate solo un fatto, palestre chiuse, ci sono gare nazionali di qualunque tipo di disciplina, gli atleti lombardi, veneti o quelli di determinate zone non si possono allenare rispetto a quelli di Roma, Bari, Napoli e cose di questo genere, però si devono affrontare. Come la mettiamo? Cioè uno arriva con 3 settimane senza prove e allenamenti o si fa solo casalinghi? Gli allenamenti, questo da un punto di vista dilettantistico giovanile, e anche questo c'è da porre un grande punto interrogativo. Pier? Ragazzi, io credo che siamo di fronte a una riflessione un pochino più profonda su tutto, no? E da questo punto di vista sono d'accordo con Burioni quando qualche istante fa ricordava le oscillazioni anche nostre, anche mie, di umore di questi 10 giorni, il passaggio da uno stato di paranoia, di psicosi, a un momento a metà della settimana scorsa in cui giustamente da un certo punto di vista legittimamente c'era quasi la spinta a riaprire tutto, a non fare la figura degli unici appestati, cioè qui siamo veramente di fronte a qualcosa di più grande, che riguarda tutto, poi è ovvio, ci sono i danni economici, ci sono i danni di umore, ci sono le fasce della popolazione più deboli dal punto di vista economico che dovranno essere aiutate, però dobbiamo capire che noi ogni giorno commentiamo, adesso siamo in mezzo al ciclone e commentiamo e ci sembra che non ci sia più niente da fare, poi se lo proiettiamo su una vita, quanto potrà durare questa emergenza? 2 mesi? 3 mesi? Lo so che sono dei danni incalcolabili per il mondo e possono impattare tantissimo, però io credo che l'unica possibilità che abbiamo è pensarla così, come uno shock che poi immagino porterà a una sorta di dopoguerra e di ripartenza, se possibile con ancora più entusiasmo, ma in questo momento veramente bisogna soltanto portare a casa la pelle. Scrive un amico da Sesto San Giovanni, si chiama Luca, il Parco Nord, che è a nord di Milano, è pieno di atleti mai visti che si stanno allenando, e magari appunto, c'è anche qualche atleta professionista che si sta allenando. Ti devi attrezzare in questa maniera, ma certamente l'atleta ci andava Brugnetti, mi ricordo, ad allenarsi al Parco Nord, marciatore. Cioè, tutti quanti, diciamo, quello che dice Pierre è giustissimo, cioè la cosa, non sappiamo realmente che tipo di situazione andiamo incontro, è meglio, ma guardate quello che è stato fatto adesso in Italia, e l'avete detto voi prima, e lo sta arrivando in tutta l'Europa con un botto mica da ridere, quindi noi abbiamo preceduto, prendendoci le critiche, anche gli insulti o anche le prese in giro, vedi diciamo quello che sta avvenendo come al solito degli amici fraterni francesi che ci prendono in giro anche su alcune televisioni e via di seguito, no, ma però la realtà è che noi abbiamo anticipato i tempi e ringraziamo Dio l'abbiamo fatto mettendo un pochino in quarantena un po' l'Italia del Nord, però non sappiamo le tempistiche, tutti quanti, a meno tutti gli esperti dicono più avanti si va, più abbiamo un controllo, più si studia una situazione e più si va a demotivare il virus vista la situazione di tra virgolette calore. Quindi quello che diceva Pierre è sacrosanto, diciamo, al di là delle litigate sciocche e stupide, le uscite fuori luogo di tanti personaggi del calcio, c'è da vedere veramente a destra e a sinistra chi è che ho a fianco, come mi devo comportare e via di seguito, mantenendo sempre quel tipo di rispetto e dignità e di intelligenza, di non esagerare, però nello stesso tempo un minimo di controllo ci deve essere, che miseria. Sì, non c'è dubbio. Soprattutto c'è una cosa, tante volte noi nella nostra cultura occidentale siamo stati abituati a pensare alla paura e a combattere la paura, per cui gli aperitivi contro la paura, quando c'è stato il terrorismo, quando ci sono state altre altro genere di dinamiche, giustamente l'economia, il riflesso dell'Occidente, al quale io sono felice di far parte nel mio piccolissimo e tutti noi ne facciamo parte, è quello di ricominciare a vivere, e che è giustissimo. E in questo caso però forse in questo momento no, cioè forse in questo momento bisogna semplicemente starsene buoni, fermi, zitti, a distanza di 2 metri l'uno dall'altro per 15 giorni, 20 giorni, quello che ci diranno, e usare questo tempo per pensare a quanto sarà poi bello e importante ripartire dopo. Non vedo veramente alternative. Poi siamo fermi a quello che ci diceva Burioni qualche giorno fa, che ci dicono, e che ci dicono ovviamente tutti gli scienziati, cioè qualche giorno avremo un quadro un pochino più preciso, capiremo se questo benedetto picco l'abbiamo superato. Sì, e nel frattempo giustamente chiudiamo finalmente le porte degli stadi, magari mettendo il punto ed evitando che dentro questa vicenda poi si possano inserire gli appetiti di questo o di quel presidente, dirigente, organo intermedio che deve decidere, e alla fine deve avere solo l'obiettivo comunque di portare avanti, fin quando possibile e in massima sicurezza, ciò che è deputato a portare avanti, nel caso il campionato, il torneo, la Coppa Italia o qualunque cosa c'è che ci ricorda che gli allenamenti a porte chiuse sono autorizzati da qualche giorno. È vero, però ricordatevi sempre la differenza che passa tra chi fa un allenamento normale, chi magari lo fa perché deve andare a fare la gara che lo porta o meno all'Olimpiade di Tokyo di luglio. Evidentemente siamo in una situazione eccezionale. Grazie a Giovanni Bruno. Grazie a voi, veramente ciao, è stato un piacere. Ciao. Grazie Giovanni. Abbiamo la borsa, c'è Franco da Potenza. Chiedo a Franco di pazientare un paio di minuti, poi torniamo e andiamo avanti a parlare. Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Convocati. I giocatori ci sono 22, poi ci sono i panchinari, poi ci sarà un minimo di servizio di sicurezza da garantire, ma non è comunque un assembramento di tante persone, anche se la partita si fa a porte chiuse, ma proprio non c'è l'idea di bloccare e basta a questo punto? In un paese normale un Dalpino oggi darebbe le dimissioni seduta stante, perché è stata presa una decisione, la più logica, che lui solo pochi giorni fa, in maniera anarchica, come raccontato da lui, ha negato. Allora, questi vostri messaggi 349-238-6666, sms WhatsApp 800-24-00-24, numero verde. Intanto Ascoli Chievo, anticipo dell'ottava di ritorno in programma questa sera ad Ascoli, si giocherà a porte chiuse. È una vicenda un po' strana perché c'è stato un momento in cui per qualche ora è stata rinviata su ordinanza delle autorità. Invece adesso la Lega di Serie B ha reso noto che si può giocare e si gioca a porte chiuse. Franco da Potenza, Franco. Sì, buongiorno e grazie per la convocazione. Grazie a te. Sono un agente di commercio, ho a che fare anche con delle aziende tedesche, francesi e austriache. Ieri mi sono visto la partita Schalke-Bayern con 70.000 spettatori. Anche lì il contagio diventa ogni giorno sempre di più. Ma non fanno niente, non lo so che sia tutto sottovalutato da parte del resto dell'Europa. No, però credo Franco, io non faccio il virologo, c'è tutto il resto del palinsesto che si occupa di questo in questa radio, però ho l'impressione che i numeri attualmente dei contagi in Germania siano nettamente più bassi rispetto a quelli dei contagi in Italia in generale e soprattutto in alcune regioni del nord Italia. Credo che la spiegazione stia qui, se poi anche da loro arriverà l'emergenza con i numeri che stiamo affrontando noi, probabilmente settimana prossima lei Schalke Bayern con 70.000 persone non andrà a vederle. Così a occhio credo che questa sia la chiave di lettura. Pier, non so se condividi, poi ci andrei da Pescara. Sì, la chiave di lettura è Klopp. Cioè, ma questo vale da 2 settimane, e anzi come sempre l'approccio nostro, aspetta che ti faccio sentire in diretta da Sky Joe Barone. Vai. Che è appena uscito dal salone del CONI, sentiamolo. Quali sono state le decisioni che avete preso insieme agli altri rappresentanti delle società? Sì, no, la Fiorentina non era parte del Consiglio, noi stavamo qui per incontrare il presidente del CONI Malagò, per il nostro primo incontro e poi per un tema per il calcio italiano delle infrastrutture, per gli stati, per avere unità fra il CONI, Federazione, Serie A, B, C e dilettanti. Quella è la nostra presenza qui oggi. Ancora la riunione, il Consiglio è dentro, stanno ancora parlando. La Fiorentina non ha fatto parte della riunione. Però se vabbè, non so, quindi la Fiorentina stava al piano di sopra con Malagò, mentre di sotto stavano i presidenti della Serie A del Consiglio, perché l'assemblea è andata deserta per discutere il tema dei calendari. Andrea da Pescara. Andrea, intanto sì, saluto, buongiorno. Vincenzo Pincolini, grazie Vincenzo di aver accettato il nostro invito. Adesso parliamo. Ciao a tutti, buongiorno. No, io ho sorriso, ma non c'è niente da sorridere. Andrea, prego. Sì, buongiorno a tutti, grazie per avermi convocato. Dicendo che è stata fatta finalmente una decisione molto giusta, quella di fare tutti uguali a porte chiuse, come dovrebbe essere, anche se doveva essere fatto una settimana fa. La domanda che mi sorge adesso, che non riesco a capire, perché non hanno fatto giocare stasera e domani le partite di Coppa Italia a porte chiuse, tenendo presente anche che la Juve e l'Inter si liberavano di un impegno che non si sa se lo potranno poi dopo riprendere. Questa è la domanda. D'accordo. Bella domanda, soprattutto per Napoli-Inter. La risposta è che sono d'accordo. Ieri parlavo del fatto che l'Inter era già a meno uno, nel senso che era già in caso di arrivo in finale di Coppa Italia e di Coppa di Europa League, di Europa League aveva già bisogno di uno slot in più che non c'era tecnicamente, adesso diventano due, quindi è una cosa francamente incomprensibile questa, non lo so, però dico, non è incomprensibile dal punto di vista del calendario. Poi se il prefetto di Napoli stabilisce che c'è, che non si può andare allo stadio nemmeno a porte chiuse questa sera, è chiaro che domani sera, è chiaro che ha ragione lui, insomma, così come quello di Torino per quanto riguarda Juventus Milan. Qui insomma, dai ragazzi, ci adeguiamo alle decisioni dell'autorità, un po' perplessi. Un po' perplessi perché il prefetto di fatto è un rappresentante del governo che 12 ore fa ha trovato la quadra sulle porte chiuse. Teoricamente uno si aspetta che il rappresentante del governo sul territorio non faccia una cosa diversa da quella che ha deciso il governo, però se l'ha fatta avrà le sue buone ragioni. E siamo qui, e diciamo, per il sistema speriamo che l'Inter non arrivi fino in fondo nelle varie coppe. Ovviamente sto scherzando, perché altrimenti se la prendono giustamente gli interisti. Allora, Vincenzo Pincolini, uno dei decani dei preparatori sportivi italiani, come si fa a continuare a prepararsi in questa situazione? Non è facile perché i problemi sono più di uno. C'è proprio il problema di che tipo di allenamenti fare, e poi secondo me il problema più grosso è di mantenere le motivazioni, per dire, perché senza avere i focus, gli obiettivi a scadenza, c'è proprio il rischio che casomai determinati pensieri ti portino un po' fuori dalla grande condizione, che chiaramente chi è in grande condizione mantenerla ha tante difficoltà, ecco. O addirittura, guarda, noi parlavamo qualche sera fa in una trasmissione qua a livello locale del Parma, il Parma ad esempio ha qualche giocatore che casomai può anche avere vantaggi perché aveva una condizione, diciamo così, precaria, ma e questi sicuramente possono arrivare al momento della ripresa in condizione ottimale. Chi è già in condizione, chi è lanciato, perché a me fa paura che quando il giocatore perde le scadenze, no? Vigilia della partita, giorno dopo recupero subito l'altro obiettivo, sia che sia andata bene che sia andato male, perdere proprio questa ritualità, questa successione e continuare a darci dentro in allenamento non è facile. È un mix di cose per cui non invidio veramente chi sta lavorando in queste condizioni in questo momento. Anche perché mi pare di capire sia impossibile fare una minima programmazione, cioè io immagino l'Inter ieri avrà fatto seduta di rifinitura, poi ha scoperto che non va a Napoli, poi deve riprogrammarsi per giocare non si sa quando, esatto, contro chi. Esatto, no, infatti il problema è questo, cioè lo stesso il Milan, la Juventus, due settimane, tre settimane di stop, allora accennavi a un richiamo di lavoro, poi dopo cercavi di fare dei lavori specifici, invece stando sempre sul chi va là non puoi né lavorare tanto e quindi sei sempre costretto ad essere in pratica come alla vigilia degli appuntamenti, ecco, perché fino a quando, come dicevi prima, non ci sarà una quadra da prendere in seria considerazione, perché pensavamo due sere fa che tutto fosse finito, invece non è così. Pierre? Ma guarda, pensando a Parma mi viene in mente un abbraccio che non serve a niente, ma insomma, perché gli investimenti che sono stati fatti per la capitale europea della cultura, insomma, il 95%, sentivo l'altro giorno per la Radio 24 di alberghi con cancellazioni, insomma, veramente siamo di fronte a un time out della vita, a un time out della produzione, a un time out di tutto, e quindi c'è poco da dire, c'è poco da fare. Ma a livello di testa, Vincenzo, a livello di testa, come reagisce un atleta? Guarda, a livello di testa è chiaro che tutto sommato qualche vantaggio ce l'ha chi ha veramente grandissimi obiettivi, per dire l'Inter che deve recuperare, la Juve che deve vincere, per dire queste squadre, come non so, la Sampdoria che continua a saltare delle partite ma deve salvarsi, per dire, io penso che da quel punto di vista lì le squadre che hanno grandi obiettivi dal punto di vista di testa, anche sulla concentrazione, abbiano meno fatica, ma ci sono veramente tante squadre lì a metà dove tutto sommato qualche risultato l'hanno già raggiunto, lì è difficile veramente incidere e tenerli sulle motivazioni più alte, devono essere bravi gli allenatori. Sì, poi c'è anche il dibattito su chi ci guadagna e chi ci perde. Cioè... C'è l'eccesso di riposo, cioè si esatto. Dice, no, chiaramente riposare aiuta rispetto a chi gioca ogni tre giorni, ma per esempio stare fermi due settimane è una leggenda metropolitana? Ma io dico anche Pier, anche senza l'adrenalina delle partite, perché è quello che ti lascia, per dire, l'allenamento, non so, l'allenamento del precampionato di una volta quando era durissimo, ma non produceva determinate sostanze come vengono prodotte dai giocatori tra vigilia e partita veramente cattiva dal punto di vista proprio anche di sostanze poi da recuperare. Cioè quando il cervello è tranquillo, per dire, l'allenamento, il problema del recupero è solo fisiologico, mentre recuperare una partita che è andata male, ad esempio, è molto più complesso per quello che è proprio il discorso negatività di un evento. Cioè viene a mancare tutto quello che è, diciamo così, il dietro le quinte dell'avvenimento sportivo. Sì, poi noi tradizionalmente sappiamo, ad esempio, che negli sport, nei campionati dove ci sono i playoff, il primo turno, per chi magari lo salta perché è arrivato primo, secondo, insomma ha chiuso ai vertici la stagione regolare, rappresenta sempre un'incognita, perché magari ti riposi, perdi il ritmo agonistico e dopo entri contro squadre inferiori, perché questo dice la stagione, ma che sono già cattive al punto giusto. Esatto, guarda, io ho vissuto l'esperienza ad esempio Russia-Ucraina, dove noi affrontavamo la ripresa delle coppe proprio a marzo, febbraio-marzo, dopo due mesi di pausa. Allora gli allenatori erano bravissimi negli ultimi 15 giorni a creare ogni tipo di stress, partite amichevoli importanti una vicina all'altra, e far finta di essere arrabbiati per tenere su nell'allenamento, cioè erano veramente alla ricerca di creare delle situazioni di pericolo vicino gara, ecco, perché dopo due mesi di sosta chiaramente qualche dubbio ce l'hai ogni stagione. Qualcosa te lo devi inventare. Grazie Vincenzo Pincolini. Grazie a voi, buona giornata. Grazie Vincenzo, ciao. Alla prossima. Beh, noi siamo quasi sotto traffico. 800 24 00 24. Ronaldo si è allenato con il resto della squadra questa mattina, questa è una buona notizia non solo per i tifosi della Juventus, ma perché chiaramente l'assenza di ieri era legata ai problemi di salute della madre di Cristiano Ronaldo, e quindi se Ronaldo è a Torino ad allenarsi significa che una parte di quei problemi di salute si sono risolti o si stanno risolvendo, e questa è certamente una notizia da accogliere con favore. Pier, ci sentiamo domani. Assolutamente, ciao, domani. Perché dopo il traffico noi parliamo di pallacanestro e del crollo di Milano ieri contro Madrid in un forum deserto. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati. Parliamo di basket perché dobbiamo raccontarvi della sconfitta di ieri sera di Milano in Eurolega, 78-73 contro il Madrid. Milano che resta fuori in questo momento dalla zona playoff europea. una partita che si è giocata in un clima un po' strano, con il forum deserto per le note vicende che ovviamente riguardano anche la pallacanestro, così come tanti altri sport e non soltanto il calcio, e con pochi testimoni di quello che è avvenuto sul parquet. Saluto Giulia Cicchinè, che è bordocampista di Eurosport, che ieri ha trasmesso la partita e che trasmette l'Eurolega. Giulia, ciao, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio anche a voi. Mi racconti un po' come si sta dentro un palazzo vuoto ad assistere a una partita? La sensazione è un po' strana, lo so che sembro verdone mentre lo dico, però non c'entra niente. Però sai, non solo stai per commentare una partita di Milano, stai per commentare una partita di Milano in Eurolega, una partita di Milano in Eurolega contro il Real Madrid, quindi è strano non vedere quelle piccolezze che sono banalmente anche le code alla biglietteria, la coda al bar, la coda al negozio. Sono tutte cose normali effettivamente, però come si dice di solito, no? Sono quelle cose che apprezzi quando poi non ci sono. E poi ti dico, è chiaro che ci sarebbe stato il sold out, perché era una sfida contro il Real Madrid, visto l'avversario, soprattutto visto quant'era importante questa partita, ritrovarsi con un palazzo completamente vuoto è stato abbastanza strano, qualcosa che non so nemmeno bene descriverti. Poi dall'altro lato voglio comunque, se possibile, fare i complimenti alla società Olimpia per come ha organizzato l'atmosfera che si viveva all'interno del forum, perché è vero, non c'erano 12.000 persone e sostituirli non è facile, soprattutto in una gara come quella di ieri, però loro sono stati veramente molto bravi, forse l'avete visto anche via Twitter o comunque nei social. Sì, era tutto colorato, sì, era tutto colorato, mancavano solo le persone. E sì. Abbiamo scoperto, e tu a maggior ragione, che la pallacanestro ha dei rumori particolari. Eh sì, perché vabbè, comunque ci sono i rumori del parquet, ci sono anche le urla e probabilmente si è sentito anche qualcosa per gli spettatori che erano a casa. Si sono sentite tante cose che magari quando ci sono 12.000 del forum non si sentono, non si apprezzano. Però anche questo fa parte del basket, no? Quei piccoli rumori che ad esempio io, che sono abituata magari da giocatrice a sentire quando comunque alle mie partite non viene nessuno, adesso li senti, adesso spero che questa cosa finisca il prima possibile, però si sentono anche in contesti più grandi come appunto quello dell'Eurolega. Andrea Meneghin, ciao, spalla tecnica al commento di Eurosport ieri, non presente al forum, lo diciamo ma non stiamo svelando un segreto, perché funzionerà così per tante telecronache anche di calcio nelle prossime settimane, verranno fatte via tubo con magari l'inviato a bordo campo che invece è presente sul posto. Andrea, ciao, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Adesso ci devi spiegare perché Milano è piombata in questa crisi. Prima però, da grande ex giocatore di basket, mi dici se davvero giocare a porte vuote significa quasi vivere, percepire l'atmosfera di un amichevole, anche se poi è una partita di Eurolega? Sì, porte chiuse. C'è qualcosa di diverso. Ovviamente la carica del pubblico a favore e anche contro ti stimola, ti dà quella marcia in più, ti fa anche rimanere ancora più concentrato su quello che devi fare. Ti isoli, ti guardi solamente i tuoi compagni di squadra, le mosse dell'avversario. Mentre così senti, sì, c'è più comunicazione, perché puoi chiamare, puoi sentire esattamente da quale parte arriva il blocco, piuttosto che una comunicazione di un compagno di squadra. Però cambia tante cose, sei talmente abituato a giocare nella festa, nella gioia, nel tifo di chi va a vedere la partita, che un po' ti condiziona. A dire il vero, ieri sera a Milano ha tratto dei benefici per tre quarti di gara. Sì, è mancato l'ultimo quarto. Cioè, esatto. C'è quasi da chiedersi se con 12.000 persone alle spalle avresti preso 32 punti nell'ultimo quarto. È un po' il problema di Milano nel terzo e quarto periodo di gioco. Solitamente quando perde le gare questi quarti sono fatali, o il terzo o il quarto rientra dagli spogliatoi, diventa davvero problematico per la squadra di Messina. Ieri sera si è trovata di fronte anche un Real Madrid che non era al completo, aveva 5 giocatori importanti fuori dal roster, ha fatto la sua partita, solo che non ha fatto i conti con la carica agonistica di Rudy Fernandez, con le giocate spettacolari di Campasso nell'ultimo minuto. Fino a quel punto aveva fatto solamente un punto, e poi quando c'è stato da portare a casa la partita, grazie ai meccanismi difensivi strarodati del Real Madrid, alla mentalità vincente, ha alzato l'ennesimo trofeo di questa gestione Lasso due settimane fa, proprio vincendo la Coppa del Re, e nonostante Tuni continua a giocare sempre allo stesso modo. C'era Garuba, un 2002 ha sofferto l'assenza di Jordan Mickey piuttosto che di Anthony Randolph in maniera egregia, mettendo grandissima intensità, mettendo tanta energia, e hanno proprio questa sistema, chiamiamo così, che gli consente di giocare anche in piena emergenza. Sì, resta un mistero perché neanche Messina riesca a mettere mano ai difetti dell'Olimpia. Diventa un po' complicato. Ci sono state tante situazioni che hanno... A inizio stagione Milano andava benissimo, l'inizio di stagione è stato spettacolare in Eurolega, un po' più problematico in campionato. Poi in Eurolega le vittorie sono arrivate, anche convincendo con la difesa, quella che mancava forse un po' nelle ultime stagioni di Milano. E poi sono un po' ricominciati i problemi offensivi della squadra dell'Olimpia, perché tendenzialmente Milano, se fa canestro da tre punti, riesce a stare avanti dalla partita, riesce a condizionarla e a condizionare soprattutto le difese degli avversari. Altrimenti si perde e poi si infila nelle crisi. Esatto, anche gli infortuni. Poi quest'anno non dimentichiamo che Milano ha avuto tanti giocatori assenti per lungo periodo. Nedovic ha giocato pochissime partite, così come Gudaitis a inizio stagione. Rodriguez si è fatto male ieri sera, stoicamente è sceso in campo in condizioni davvero difficili per qualsiasi persona entrare in campo, distorsione alla caviglia con stiramento, contrattura, spero più contrattura che stiramento per il ciaccio, e ha stretti i denti e ha giocato. Un grandissimo Moraschini ieri sera ha fatto la partita al career high in Eurolega, 21 punti per lui, non è bastato, ma serve un po' più di... Sai, quella vittoria... Sì, serve ricominciare a vincere, anche perché sì, la linea dei playoff in Eurolega sta di fatto a una sola vittoria, però insomma le giornate cominciano a venir meno, comincia a essere sempre più complicato il calendario, e insomma c'è questa sensazione di una stagione che stia un po' scivolando via. Grazie Andrea. Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti. Grazie anche a Giulia Cecchinè. Ciao Giulia, grazie, alla prossima. Grazie a voi, alla prossima. Marco, provincia Cremona. Marco. Buongiorno, mi devi scusare se sono un po' leggermente polemico. No, basta che sia rapido. La scuso, molto basta rapido. Che sia allora, rapido. Allora, il governo lo fanno i giornalisti. Sì. Lo sport lo fanno i giornalisti. Ma se c'è un decreto, questo decreto va rispettato. Dalle mie parti di Cremona, le persone di 60 anni, 62, 63, non vanno al bar. C'è una distanza tra il bar a bere qualcosa, un tavolino, non posso ma non solo a Cremona, Marco, lo fanno ovunque in Lombardia ed è giusto così, e speriamo ma che venga rispettato il decreto che adesso chiude le porte. No, potevano giocare a porte chiuse, come dirà il decreto tra qualche ora. Gabriele, provincia di Macerata. Gabriele. Niente, volevo confermare che quindi il presidente dell'Inter aveva ragione, no, su questa cosa. No, fare non aveva ragione nei sì, termini, aveva ragione nel quello contenuto. Quello che ha detto anche il virologo, capito, le cose vanno peggiorando, quindi è impossibile fare le partite anche con metà dei tifosi. È impossibile, è da matti, l'ha detto il virologo questa notte nella nostra trasmissione. Mi perdoni Gabriele, è inutile che si scalda. Mi sembra che sia tre giorni che noi diciamo questa cosa. Se si riferisce ai termini usati da Steven Zhang, sono inaccettabili. All'idea che si sia andati un po' a onde, a zigzag, e forse finalmente adesso ci siamo con un'indicazione univoca, si va verso le porte chiuse per un mese e poi vedremo che cosa succede, io appoggio quello che lei dice e pensa. Ringrazio Claudio Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronato in regia, ci sentiamo domani dopo il GR delle 14. Minchia, è stato una montagna russa. Ci vediamo domani. Enjoy. Saluti.